502 Pasticcio di magro. Mancherei a un dovere di riconoscenza se non dichiarassi che parecchie ricette del presente volume le devo alla cortesia di alcune signore che mi favorirono anche questa, la quale, perché in apparenza accenni ad un vero e proprio pasticcio, alla prova è riuscita degna di figurare in qualunque pranzo, se eseguita a dovere. Un pesce del peso di grammi 300 a 350, riso grammi 200, funghi freschi grammi 150, piselli verdi grammi 300, pinoli tostati grammi 50, burro quanto basta, parmigiano idem, carciofi numero 2, uova numero 2. Cuocete il riso con grammi 40 di burro e un quarto di cipolla tritata, salatelo e, quando è cotto con l'acqua occorrente, legatelo con le dette uova e grammi 30 di parmigiano. Fate un soffritto con cipolla, burro, sedano, carote e prezzemolo e in esso cuocete i funghi tagliati a fette, i piselli e i carciofi tagliati a spicchi e mezzo lessati. Tirate queste cose a cottura con qualche cucchiaiata d'acqua calda e conditele con sale e pepe grammi 30 di parmigiano grattato, quando le avrete ritirate dal fuoco. Cuocete il pesce, che può essere un muggine, un ragno o anche pesce a taglio, in un soffritto d'olio, aglio, prezzemolo, sugo di pomodoro o conserva, e conditelo con sale e pepe. Levate il pesce, passate il suo intinto e in questo sciogliete i pinoli che prima avrete abbrustoliti e pestati. Togliete al pesce la testa, la spina e le lische, tagliatelo a pezzetti, rimettetelo nel suo intinto e uniteci ogni cosa meno che il riso. Ora che gli elementi del pasticcio sono tutti pronti, fate la pasta per inchiudervelo, di cui eccovi le dosi: farina grammi 400, burro grammi 80, uova numero 2, vino bianco o marsala 2 cucchiaiate, sale un pizzico. Prendete uno stampo qualunque, ungetelo col burro e foderatelo con la detta pasta tirata a sfoglia. Poi riempitelo versandovi prima la metà del riso, indi tutto il ripieno e sopra il ripieno il resto del riso, ricoprendolo alla bocca con la stessa pasta. Cuocetelo al forno, sformatelo e servitelo tiepido o freddo. Eseguito nelle dosi indicate, basterà per 12 persone. 503 Ranocchi in umido. Il modo più semplice è di farli con un soffritto di olio, aglio, prezzemolo, sale e pepe, e quando sono cotti, agro di limone. Alcuni invece del limone usano il sugo di pomodoro, ma il primo è da preferirsi. Non li spogliate mai delle uova, che sono il meglio.